Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. La giornata è mutevole. Grandi nuvole vengono trasportate dal vento nel cielo azzurro. È il 30 marzo del 1989. Nel grande spazio antistante il Museo del Louvre, nella corte di Napoleone, gran parte del governo francese è schierato per una storica inaugurazione. Ma il vento gioca brutti scherzi. Gli impermeabili svolazzano, i cappelli volano, le dame faticano a trattenere le gonne. In prima fila, il presidente François Mitterrand attende di tagliare il nastro che lo separa dalla più importante delle sue grandi opere. È appena iniziato il secondo mandato del presidente socialista. Amato o odiato che sia, Mitterrand ha un'idea chiara di come intende la Francia e Parigi. Crede in una supremazia culturale del suo paese e per la capitale ha in mente un progetto di riassetto e di opere imponenti. Ha appena inaugurato il Museo d'Orsay, realizzato dall'italiana Gae Aulenti, e l'Istituto del Mondo Arabo, disegnato dal francese Jean Nouvel. Di lì a poco inaugurerà anche la Grande Arche del danese Johan Otto von Spreckelsen, nel nuovo quartiere della Défense. Con tutte queste inaugurazioni, il presidente Mitterrand sta cambiando il volto di Parigi, aprendo la strada al fenomeno degli archistar. Due parole così distanti fra di loro, come architettura e star, cioè la star di uno spettacolo, in quest'epoca contemporanea, assetata di icone, sono state unite per definire una delle figure più controverse del panorama creativo. I grandi architetti, in un'epoca di opere immense al servizio di migliaia, se non di milioni di persone, come aeroporti, musei, centri commerciali e interi quartieri, si ritrovano a lavorare in un'atmosfera enormemente influenzata dal mondo dei mass media, dove le loro opere sono fotografate, incensate, pubblicate e spettacolarizzate, arrivando spesso a spostare il senso dell'operazione dall'opera in sé alla figura celebrata e autocelebrante dell'uomo che l'ha progettata. L'edificio cede il passo alla messa in scena e alle esigenze di chi abita si preferiscono le esigenze della pubblicazione sulle riviste, della notorietà. Ma in questo momento questa polemica non interessa la folla presente all'inaugurazione. L'interesse è concentrato su quello che si vede alle spalle dell'establishment francese, nella Cour Napoléon. Nel grande spiazzo si staglia inaspettatamente una piramide di vetro alta 20 metri. Ai suoi lati, altre due piramidi più piccole. Le piramidi sembrano quasi un miraggio, un sogno surreale di qualcosa capitato per caso, di un mondo lontano. Lì, nella corte cinquecentesca che ha visto succedersi i Valois, i Borbone e gli Orléans. Il progetto che riguarda il riassetto del Louvre è quello che ha coinvolto maggiormente il presidente francese. Il principale museo del mondo, da anni, ha bisogno di una risistemazione che semplifichi l'accesso ai quasi 10 milioni di visitatori che ogni anno vengono a vedere i capolavori come la Gioconda o la Vergine delle Rocce. L'inaugurazione che si sta svolgendo in questo momento è il passo finale di una meravigliosa visione, come ci racconta Françoise Madruce, coordinatrice degli allestimenti interni del Museo del Louvre. La costruzione della piramide è stata fondamentale perché si iscrive in un grande progetto iniziato nel 1980 da François Mitterrand che consisteva nella risistemazione d'insieme del quartiere del Louvre, così come dell'intero palazzo. Lo scopo della piramide è di offrire una nuova accoglienza al pubblico con tutte le attrezzature e le comuni infrastrutture senza sottrarre spazio alle collezioni e agli spazi museali del Louvre. Fin dalla sua progettazione, la Grande Piramide ha sollevato un vespaio di polemiche. C'è chi l'ha definita un'incongruenza, chi un falso storico, chi un'intuizione geniale. Chi la celebra addirittura in un film, come ne Il Codice da Vinci con Tom Hanks. Mr. Langdon? Sì. Sono il capitano Bezufash. Le piace la nostra piramide? È magnifica. Una cicatrice sul volto di Parigi. Mi segua, prego. L'accoppiamento di quelle due piramidi è unico. Creano un'eco geometrica. Affascinante. Ma l'opera che Mitterrand sta per inaugurare è comunque destinata ad andare oltre le mode e a diventare un simbolo, come tiene a precisare sempre Françoise Madrus. La piramide è ciò che attira i visitatori stranieri che vengono per la prima volta al museo. La cercano. E oggi per loro è come fosse il simbolo del museo. È evidente che la piramide è diventata un punto di forza. Un'immagine di cui i visitatori si sono appropriati. L'uomo che l'ha progettata in questo momento è vicino al presidente e con un sorriso abbraccia tutta la grande piazza davanti a sé, incurante per un momento delle critiche come delle lodi. È quest'uomo il primo protagonista dei Destini Incrociati di oggi. Nel 1989 è ormai un architetto di fama mondiale, ma in quella mattinata sembra che l'emozione gli faccia malapena distinguere i giardini delle Tuileries di fronte a lui. In fondo, anche lui, con la sua piramide, ha appena piantato un seme nella storia del Louvre e dell'architettura moderna. Al nostro protagonista le Tuileries ricordano altri giardini, in un'infanzia felice e privilegiata, in cui l'idea del bello, dell'armonia e delle proporzioni perfette sono state parte integrante della vita della sua famiglia sin dalla nascita. Cina orientale, intorno al 1920. Nella casa chiamata Giardino del Leone della Foresta, cinque bambini giocano a rincorrersi fra le sculture di pietra erose ad arte nei secoli, lungo i ponticelli sospesi sui laghetti pieni di carpe e pesci rossi e fra piante di infinite varietà. Uno di questi bambini è quell'architetto che ritroveremo al fianco del presidente Mitterrand. Il suo nome è Yao Ming Pei, I am Pei, come a dire io sono Pei. Ai Yanpei nasce in Cina nel 1917. Il paese è in fermento. Il giovanissimo imperatore Puyi è appena stato rimesso sul trono per opportunità politiche, ma il suo potere dura esattamente 12 giorni. Una volta deposto, resta bloccato nella città proibita fino all'invasione giapponese. Una prigione dorata meravigliosamente descritta nel film di Bernardo Bertolucci, L'ultimo imperatore, di cui ascoltiamo un brevissimo estratto dal trailer. Piccolo Puyi. Io qui oggi decido che tu poi diventerai il nuovo signore dei 10.000 anni. In quegli anni Ai Yanpei non sa nulla delle vicissitudini dell'imperatore Puyi e del suo paese. Quel bambino si preoccupa solo di giocare coi fratelli fra le piante. Il giardino dove si trova è considerato uno dei più belli della città, tanto che anni dopo l'UNESCO lo include nei siti Patrimonio dell'Umanità. Our family garden. Il giardino della nostra famiglia è famoso per le sue rocce. Sono rocce che hanno tutte forme molto strane, piene di buchi, di sorprese, di volute, e sono frutto sia della natura che della mano umana. E il giardiniere che le forma è un artista, molto simile ad artisti come Henry Moore. È uno scultore. Del resto la famiglia Pei è ricca e nobile, risale persino al periodo della dinastia Ming. Il padrone di casa è un alto dirigente della Banca della Cina, di cui diventerà direttore. La moglie è una donna colta e raffinata. Ai Yanpei la adora. La segue nei suoi ritiri buddisti, suona con lei e da lei riceve un imprinting artistico che lo segnerà. Neanche per un attimo viene sfiorato dall'idea di seguire le orme paterne. Mio nonno era un famoso calligrafo e mia madre era molto brava nella calligrafia, nella poesia e nella musica. Dunque, quella parte della famiglia è stata molto più artistica di quella paterna. Per il lavoro del padre, la famiglia prima si trasferisce a Hong Kong e poi a Shanghai, quando Ai Yanpei ha 10 anni. Qui frequenta un collegio di missionari protestanti dalla disciplina durissima. Agli studenti è permessa solo mezza giornata di riposo al mese. Siamo al cinema. È il 1932. Stanno dando un film con Bing Crosby, Confession of a Coit. You came to me from out of nowhere. You took my heart. Found it free. Nel suo unico giorno libero, Ian Pei va al cinema. Ama l'atmosfera fumosa delle sale di Shanghai, il senso di libertà nel trovarsi in un luogo proibito dai suoi genitori a vedere i film americani di Bing Crosby e Buster Keaton. I film gli permettono anche di imparare l'inglese. Non sa che lavoro vuol fare da grande, ma una cosa è certa: vuole fare l'università all'estero. Anche per lui arriva il momento di decidere, di scegliere. Il padre di Pei preme per conoscere i desideri del figlio e quando la risposta di Pei arriva, questa scaturisce da un'impressione, da una suggestione, come tenta di raccontare al padre. Mio padre era molto interessato al mio futuro. Cosa vuoi fare nella vita? In quegli anni stavano costruendo il Park Hotel, 23 piani. Ora, nel 34-35, un palazzo di 23 piani a Shanghai era incredibile. Era come costruire 100 piani a New York. E io, che ero un ragazzo, trovavo entusiasmante poter costruire un palazzo di quell'altezza. Così gli dissi, forse architettura. Questo è stato l'inizio. Architettura. Una scelta non incomprensibile per il figlio di una donna interessata all'arte e al bello. Ma dove? È Bing Crosby a dettare la sua scelta. Per quanto colto, intelligente e ben educato, Pei è pur sempre un ragazzo di 17 anni. Oltre a studiare architettura, ha anche molta voglia di divertirsi dopo gli anni quasi monacali trascorsi nel collegio a Shanghai. Hollywood e i film americani gli fanno credere che la vita nei campus americani sia allegra, divertente. Tutto il contrario dell'accademico mondo cinese. Quando nel 1935 Pei si imbarca sul piroscafo President Coolidge, il futuro sembra pieno di promesse, di opportunità, di vita. In America, George Gershwin trionfa con il musical Porgy and Bess. È In Necessarily So è una delle canzoni più belle dello spettacolo. L'America nella metà degli anni 30 è un paese che ha voglia di riscatto. La Grande Depressione lascia il posto al New Deal voluto dall'appena eletto presidente Franklin Delano Roosevelt. Nasce il welfare, lo Stato che assiste, cardine del programma del nuovo presidente. Sono pronto, come mio dovere costituzionale, di raccomandare le misure di cui una nazione colpita in mezzo a un mondo colpito necessita. Ma nel caso in cui il Congresso non prenda una decisione chiara, nel caso in cui l'emergenza nazionale rimanga ancora critica, io non evaderò quelle che sono chiaramente le mie responsabilità e chiederò al Congresso, come ultimo strumento per far fronte alla crisi, un ampio potere esecutivo. Nel giro di soli 100 giorni, Roosevelt vara circa 15 leggi e progetti, forse non tutti perfetti, ma che ebbero la forza di salvare l'America dalla catastrofe. Se la grande crisi in Germania viene usata come giustificazione per misure estreme e dittatoriali, negli Stati Uniti Roosevelt agisce sempre nel rispetto della democrazia, fondando la sua politica sulla fiducia non solo nelle grandi risorse del paese, ma soprattutto sulla capacità del suo popolo di reagire e di essere parte attiva nel governo della nazione. Il suo è un ottimismo che paga e che si trasmette a tutte le categorie produttive americane, non solo all'agricoltura e all'industria, ma anche alle arti e al cinema. È il grande momento di Frank Capra e di film come È arrivata la felicità con Gary Cooper o Accadde una notte con Clark Gable e Claudette Colbert, dove una viziata ereditiera prende coscienza degli effetti della Grande Depressione e l'happy ending è garantito. Ho dimenticato di dirvi che non c'è niente da mangiare. Bella notizia. Che mangiate? Carote. Crude? Volete? No. Mi pare che possa mangiare certa roba. Scusate l'ardire, farmi mangiare certa roba. Ora ordineremo caviale e tartufi per voi. Mangiate una carota, non è chic ma è nutriente. Io detesto le carote. Di grande ottimismo è permeato anche quel giovane cinese sbarcato dal piroscafo President Coolidge. Ma l'impatto con l'America non è così entusiasmante per Ian Pei. All'Università della Pennsylvania trova la stessa impostazione accademica che lamentava in Cina. Le lezioni sembrano un concentrato di leziosità, di colonne greche, di stucchi fioriti. E per questa visione delle belle arti, che Pei ha lasciato il suo paese, la sua gente, la sua lingua. E poi c'è il problema del disegno. Pei non ha ereditato la mano precisa e perfetta del nonno calligrafo. E in un'università che privilegia la forma alla sostanza, questo sembra un handicap insormontabile agli occhi del giovane studente cinese. Ma non è solo rispetto all'università che Pei si sente inadeguato. L'amatissima madre è morta qualche anno prima di cancro, e il non riuscire a tramandarne l'arte del disegno riempie di sconforto Pei. La crisi che attraversa lo spinge a chiedere il trasferimento al corso di ingegneria del MIT. Ma il rettore del famoso Institute of Technology lo convince a proseguire gli studi di architettura. Ai suoi occhi, il ragazzo ha la stoffa del designer. A Pei interessa un'architettura diversa da quella accademica. Del resto, il New Deal non coinvolge solo gli aspetti economici della vita della gente. Il nuovo patto con il popolo dovrebbe riguardare anche altre sfere dell'esistenza, prima fra tutte la casa, le modalità della vita in comune. Ci sono masse di persone che con la depressione si spostano dalle campagne alle città. Necessità che cambiano, luoghi di aggregazione comuni da creare. E a questo tipo di interventi, di architettura, che Pei e i suoi compagni volgono la loro attenzione, un'architettura con una solida base teorica, in cui lo studio delle necessità dell'uomo viene prima della preoccupazione del bello, dove la funzionalità in quanto tale diventa automaticamente estetica. Pei sa che queste idee sono già attive in Europa, riunite in un manifesto frutto delle riflessioni di un architetto che si rivelerà uno dei massimi teorici dell'architettura moderna. Di questo grande accademico, Pei è affascinato. Vuole conoscerlo, sente il bisogno di confrontare le proprie idee con quelle del maestro. Aspetta un'occasione e il destino gliela presenterà su un piatto d'argento. È una grigia giornata di novembre del 1935 a Cambridge, nel Massachusetts. Nell'aula magna del MIT, una folla di studenti si accalca sugli spalti. Sta per iniziare una lezione attesissima. Il più famoso e acclamato architetto europeo è in America per tenere delle lezioni in giro per le università. È un austero signore con gli occhiali tondi che sta analizzando l'attuale contesto storico degli Stati Uniti e del mondo occidentale in generale, che è alla base del suo assetto teorico. La prima era industriale, iniziata circa 100 anni fa, è stata l'età del caos. La seconda era industriale sarà l'età dell'armonia, ed è appena iniziata. Può sembrare un discorso utopico, ma tutti gli studi, tutti gli sforzi fatti negli ultimi 10 anni dall'architetto che sta parlando davanti a un'aula completamente rapita, tendono al raggiungimento di questa armonia, di un'architettura al servizio dell'uomo. Per condividere le sue teorie, la sua idea di ameccanisma, e cioè la macchina con l'anima, di una seconda era industriale che possa unire i metodi dell'industria standardizzata con un nuovo umanesimo, ha attraversato l'oceano. Si chiama Charles-Édouard Jeanneret Gry. Destini incrociati. È il novembre del 1935. Da 2 giorni, il grande architetto europeo Charles-Édouard Jeanneret Gry sta soggiogando con il suo intenso fascino e le sue teorie tutti gli studenti di architettura del famoso Istituto di Tecnologia del Massachusetts. Tra quegli studenti siede un giovanissimo ragazzo cinese, Yao Ming Pei, I Am Pei. Per il giovane si tratta di un momento fondamentale per la sua futura carriera. Per la prima volta, gli studenti presenti sentono che quello che stanno ascoltando non è solo mero calcolo, fredda geometria, ma l'espressione di concetti molto più alti. La mia ricerca è come i miei sentimenti, diretta verso quello che è il valore principale nella vita dell'uomo, la poesia. Il giovane Pei trascorre questi 2 giorni come perennemente calato in una specie di sogno. Ecco quello che cercava fin dal suo arrivo in America: poesia, sentimento, natura. Quella poesia e quella natura che ha conosciuto sin da bambino nel giardino del leone della foresta, nella lontana Cina. Quei luoghi di pace, di rispetto, a misura d'uomo, acquistano ora senso alla luce delle lezioni di quell'insegnante dall'accento francese che teorizza lo studio della forma al servizio della funzione, al servizio dell'uomo. Quei 2 giorni trascorsi con Le Corbusier. Le Corbusier, questo è il nome che lo svizzero Charles-Édouard Jeanré Gris si è dato già a partire dai suoi primi anni parigini, nei lontani anni 20. A Parigi, il giovane architetto giunge nel 1917, dopo un grand tour che lo ha portato nelle più grandi città d'arte d'Europa, prime fra tutte quelle italiane: Firenze per i palazzi rinascimentali, Roma per il barocco, sulle orme dei giovani aristocratici inglesi che nel XVIII secolo completavano la loro educazione in Italia. Non ci sono grandi differenze fra i giovani lord inglesi del Settecento o lo stesso Goethe che compì il suo viaggio in Italia alla fine del XVIII secolo con quello compiuto da Le Corbusier, iniziato nel 1906 e conclusosi poco prima che scoppiasse la Prima Guerra Mondiale. Per ognuno di loro il Grand Tour significava un viaggio di istruzione vero e proprio. Aprire la mente, rifinire il gusto, godere del bello. Solo che il Grand Tour del giovane Le Corbusier si traduce in calcoli, riflessioni, disegni. Fra i palazzi romani inondati dalla luce del sole e i giardini di Firenze, Corbus, come viene amichevolmente chiamato, comprende quali sono i fondamenti dell'urbanistica. Il sole, cioè la luce, lo spazio e il verde, i giardini. Piloni che sostituiscono i blocchi in muratura, dando maggiore slancio e leggerezza all'edificio, separandolo dal terreno. Il tetto giardino, in sostanza un'ampia terrazza dove godere il contatto con la natura, con l'aria aperta e dove socializzare. La pianta libera, e cioè nessuna struttura portante limitante all'interno dell'appartamento per favorire la cosiddetta promenade architecturale, una continuità spaziale mai interrotta da corridoi, spazi angusti, solo grandi spazi. La facciata libera, dove elementi orizzontali o verticali si assommano liberamente senza una reale necessità strutturale. La finestra a nastro, un'innovazione permessa dal cemento armato che fa sì che tutta la facciata possa essere anche un lungo susseguirsi di finestre e quindi luce, sole che entra. La lezione di Le Corbusier viene immediatamente compresa da I.M. Pei. La geometria è solo l'inizio. Per l'architetto, per me almeno, è un sistema di pianificazione che lega tutto insieme. Ma oltre a questo ci sono le texture, i colori, le forme, la luce e lo spazio. Quindi tante cose sono necessarie per trasformare la geometria in un'opera d'arte. Con in testa le teorie di Le Corbusier, I.M. Pei si laurea nel 40. Ma la Seconda Guerra Mondiale e Pearl Harbor sono alle porte degli Stati Uniti e Pei dovrà aspettare il 48 per ottenere il suo primo incarico di rilievo come direttore di architettura in una società immobiliare. Nel 55, a 38 anni, apre il suo primo studio. Sono anni di grandi cambiamenti nell'architettura, ma anche nella musica. Nel frattempo, Pei continua a seguire con interesse, anche se da lontano, i lavori del suo idolo. Ed è proprio tra il 45 e il 52 che Le Corbusier attua uno dei suoi progetti più importanti, l'Unité d'Habitation, o Cité Radieuse, a Marsiglia. A Marsiglia c'è il sole, il mare azzurro. Gli effetti della guerra appena terminata non hanno rovinato la meravigliosa bellezza del grande porto mediterraneo. I nuovi alloggi che il Ministero per la ricostruzione intende edificare devono tener conto di questo meraviglioso territorio, ma anche della necessità di dare un tetto a più di 1500 persone rimaste senza casa. Un piccolo paese. Per Le Corbusier, che prima di essere un architetto è un pensatore a tutto tondo, questa è la sfida più interessante. Per lui non esiste una sostanziale differenza fra l'architetto e l'urbanista, così come non esiste la differenza fra la casa e la città, la prima semplice sottomultiplo della seconda. È il 1961, il boom economico preme alle porte del mondo. L'epoca del New Deal e dello Stato che assiste è alle spalle e lascia il posto a una società che non chiede altro che di espandersi alla luce delle regole di un'economia di mercato che comincia ad assumere, agli occhi di Le Corbusier, contorni inquietanti. La sua idea di una seconda era industriale più giusta e armonica sta stemperandosi nelle infinite esigenze di un mondo che acquista ritmi vorticosi, con spazi sempre più intasati, brulicanti, dove il denaro ridefinisce i rapporti fra le persone e il mondo che li circonda, anche quando si parla dello spazio dove vivere. L'occasione per evadere da questa logica alienante viene fornita al grande architetto svizzero da una nazione politicamente giovanissima, l'India, indipendente dal 1947. A Le Corbusier viene chiesto di ripensare totalmente l'assetto urbano di una città, la capitale del Punjab, nel nord del paese, Chandigarh. Poter costruire la città ideale. Per un grande teorico come Le Corbusier è il sogno che diventa realtà. A Chandigarh, Corbusier non solo ripensa il tessuto della città, ma costruisce tutti i palazzi più importanti, dalla sede del Parlamento all'edificio dell'Alta Corte, al Museo dell'Arte. Qui c'è la massima concentrazione di lavori del grande architetto, che si concludono nei primi anni 60. In quegli stessi anni, dall'altra parte dell'oceano, I.M. Pei riceve la sua prima commessa veramente importante, il National Center for Atmospheric Research a Boulder, Colorado. Il paesaggio che Pei si trova davanti quando va a visitare per la prima volta il sito, in macchina, con la moglie, è mozzafiato. Il centro di ricerca sorgerà nel bel mezzo delle montagne rocciose, in mezzo a picchi di pietra rossastra, con dinanzi lo spettacolo meraviglioso delle montagne. Un panorama che a Ming Pei ricorda i monti buddisti, dove seguiva la madre nei suoi ritiri spirituali, dove applicare al meglio i principi e i valori del maestro Corbusier. Sole, spazio, verde. In questo luogo può disporre ampiamente di tutte queste tre coordinate fondamentali. Pei, come Le Corbusier, crede fermamente nel cercare di regolare la sua architettura al contesto ambientale. E si ispira alle tradizioni dei Pelle Rossa e ai loro antichi insediamenti, costruendo due gruppi di torri, anche qui prendendo dal maestro l'idea dell'insieme, dall'alto delle quali si può contemplare in assoluta tranquillità il magnifico panorama montano. Le torri, inoltre, sono rifinite con colori locali che le mimetizzano nel paesaggio. Credo che la sfida sia il problema in se stesso. I problemi sono differenti. Soprattutto per una persona come me, che ha avuto la grande fortuna di lavorare in diverse parti del mondo dove esistono tradizioni, una storia, paesi molto diversi l'uno dall'altro. Come posso disegnare un edificio in Giappone o in Colorado che somiglia a quello che ho fatto a Dallas, in Texas? Non è possibile. È sbagliato. Proprio per questo l'opportunità per fare qualcosa di originale è lì, pronta. Il mondo sta cambiando. I nuovi assetti sociali e politici sollecitano risposte adeguate che non possono essere improvvisate. Uomini come Le Corbusier hanno avuto la grandezza di avviare una riflessione profonda sull'organizzazione della vita e soprattutto dello spazio entro il quale l'uomo moderno si muove. Riflessione che la generazione successiva, come quella di I.M. Pei, è stata in grado di portare a compimento, aggiungendo capacità manageriali e grande varietà di risposte in un mondo sempre più globalizzato. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati, due grandi architetti sono alle prese con un mondo in evoluzione, che ha bisogno di grandi opere. Mentre Le Corbusier sta celebrando la grandezza di un paese da poco indipendente come l'India, I.M. Pei sta per lavorare a un progetto che celebra uno dei maggiori miti della politica democratica. Nel 63 muore assassinato John Fitzgerald Kennedy. Appena calmato il dolore, la vedova Jackie e i fratelli, primi fra tutti il senatore Bob Kennedy, sentono l'esigenza di tributare al grande statista una biblioteca come memoriale, che contenga tutto quel che riguarda la storia dei Kennedy, intrecciata a quella del loro paese. L'architetto che dovrà progettare l'edificio viene scelto fra decine di grandi nomi. Jackie Kennedy sceglie I.M. Pei anche in base alla grande varietà di idee che l'architetto cinese aveva mostrato nei suoi ultimi lavori, come se non avesse solo un punto di vista per risolvere i problemi, ma molteplici, scelti in base al contesto che trovava. Per me c'è solo l'architettura. Non esiste modernismo, postmodernismo, decostruttivismo. Si possono usare tutti gli ismi che si vuole, ma essi vanno e vengono e io non credo in nessuno di essi. L'unica cosa che solo resiste è l'architettura di quella data epoca. Nonostante le ottime premesse di reciproca fiducia fra il committente e l'architetto, questo non fu un progetto semplice. Rimandato per anni per difficoltà logistiche, il Memorial a Kennedy venne inaugurato solo nel 1979. Ma l'aspetto più importante del lavoro è che fece conoscere Pei in tutto il mondo. Gli anni passano e siamo di nuovo a Parigi, con I.M. Pei di fronte ai giardini delle Tuileries. Con un tocco lieve sul braccio, l'architetto viene risvegliato dai suoi pensieri. È il momento del taglio del nastro. il nuovo Grand Louvre viene ufficialmente aperto al pubblico. È il 1989, un'altra data storica da aggiungere alle tante che hanno fatto la storia del massimo museo mondiale. I think that's important. This date here, safe. Credo che questo sia importante. Questa data segnata su questo portale, 1541, Francesco I iniziò il Louvre, poi Napoleone III, quello che ha veramente portato alla vita il Louvre, unito alle Tuileries. E forse questo è l'ultimo intervento fatto al Louvre. Da allora più niente, fino a oggi. Pei trascorre qualche tempo a Parigi per la realizzazione del Grand Louvre. Nella città che ha visto lavorare Le Corbusier, Pei respira un'idea del bello e della funzionalità che trasmette a tutto il suo lavoro. In questa stessa corte, 20 anni prima, si è tenuto il funerale di stato di Le Corbusier, morto facendo il bagno nella sua amatissima Roquebrune, in Costa Azzurra. Il rito è tenuto dal grande scrittore André Malraux, all'epoca ministro della cultura francese, che ricorda con partecipazione come quest'uomo abbia gettato le basi teoriche dell'architettura moderna. Ed è lo spirito di questo architetto da cui è partita l'ispirazione di I Am Pei, che sembra guidarlo oggi nell'opera che sta compiendo. Pei sa perfettamente che tutto questo non sarebbe stato possibile se non fosse stato per un altro uomo, un altro francese, che gli ha dato l'opportunità di esprimersi, il presidente Mitterrand, che ha scelto e voluto I Am Pei alla guida di questo progetto, il più importante per lui e per i francesi. Da quel momento la sintonia fra i due uomini è profonda. Mitterrand appoggia ogni idea di Pei, sapendo che il risultato sarà comunque un'opera d'arte. Persino quando l'architetto propone per una piramide che si eleva sopra la terra, un'altra che invece si infila nel sottosuolo, la famosa piramide al contrario. Ho pensato di fare quello che i francesi chiamano una follia, una cosa divertente. Così ho pensato di creare una piramide all'inverso e portarla giù. Quando i lavori per il Grand Louvre terminano, il risultato è imponente. Non solo le piramidi, che sono lo spettacolo più immediato e simbolico, ma l'intero complesso museale, ripensato e risistemato per fare posto ai milioni di visitatori che entrano al Louvre per ammirarne le opere. Un'opera di cui Pei è giustamente orgoglioso. È difficile dire come mi sento. Devo confessare che mi sento molto, molto orgoglioso per il lavoro fatto, ma so anche che si tratta di un grande colpo di fortuna, di essere qui al momento giusto. Ed è su queste circostanze che continuo a riflettere, quelle che mi hanno dato la possibilità di partecipare a questo evento storico. È qualcosa che ha avuto un'importanza capitale nella mia vita. Nel 1988 il presidente Mitterrand rende Pei cavaliere della Legione d'Onore e nel 1993 lo innalza al grado di ufficiale. Un onore che anche Le Corbusier ricevette nel 1937 come cavaliere e rinnovato nel 63 come grande ufficiale. Pei oggi ha 93 anni, compiuti il 26 aprile. È un simpatico e ancora attivissimo vecchietto che continua a girare il mondo per conferenze, lezioni e incontri. È stato insignito di tutti i maggiori premi di architettura nel mondo, fra cui il premio Pritzker, definito il Nobel dell'architettura. Ma in cuor suo, I Am Pei sa che c'è solo un fattore che dà un senso alla sua opera, il tempo. And that is the importance of time. L'importanza del tempo. Non esiste gratificazione istantanea nel creare un'opera d'arte. Non credo che questo sia possibile. Credo che per un'opera d'arte architettonica ci sia bisogno di tempo per emettere un giudizio se funziona o no. E a me piace pensare che il fattore tempo sia importante per le mie opere. Un concetto che sarebbe piaciuto anche a Le Corbusier, il cui trinomio struttura, spazio, luce ha ignorato, anzi superato l'incedere del tempo, rendendo tutta la sua opera immortale. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.